vedere morire al rione. Ricorda il mio nome, ripetilo ad alta voce. Nascere e morire al rione. Nascere e morire al rione. Fa il segno della croce. Sta vita è una troia che usa il silenziatore. Ti spara a ripetizione. Devo morire nel rione. Sto con la gang, sto nella mia gloria. Ho perso fratelli, non la memoria. Vivere vent'anni in paranoia. Dimmi come fai a non odiare i soldi. Devo incassare e bruciarli in tutti i modi. Cuore freddo, ma mi son comprato un Rolex. Direx, baby, so che mi odi. 20k collane d'oro. Zitto in silenzio quando passi per casa mia. Non entrare nella mia zona, qui c'è nessuno. Zero, freddo sotto, zero. Togliersi tutto lo facciamo sul serio. Esiste soltanto un posto dove devo morire. Giovane re leone, il mio sangue tra queste strade. Sette buchi che asciro tra le guardie. Slido, scio di fuggiti, lo sento. Botti con noi è un suicidio, non siamo amici. Nascere e morire al rione. Sto in tensione, non fosso con ste persone. Non vogliamo andare in prigione. Questa città è la nostra prigione. Nascere e morire al rione. Ricorda il mio nome, ripetilo ad alta voce. Nascere e morire al rione. Nascere e morire al rione. Nascere e morire al rione. Non parlo, non vedo, non sento di colo del grifone. La prima rovesciata, piazza Rione. Zia nonna non parla, sta muovendo soldi, sto nel mio rione. Entri a testa alta, esci senza, dal mio rione. Ragazzi magri diventati grassi, Rione 1. Tony F, Parex, baby, non ripetere il mio nome. Barghenti, Blosette, la piazza è la mia prigione. Fratelli chiusi in cella, cresciuti in queste vie strette. Mezzetto al collo pesa, la mia gloria è triplo sette. Sto fumando quella douche, bionda verde la testa. Tony F, baby, pronto a toccare le stelle. Faccio sparire i soldi per mia madre e per la gang. Sempre in piazza Forza, uno rosso e Moncler. Triplo sette è la mia porta.